chi mai perduto non si arrenderà. Tu unisciti a noi con Olly e gli altri amici, dai. C'è chi sa, la pietra del mistero non gli sfuggirà. Magari in capo al mondo ma la troverà. Nessuno lo fermerà e il contatto ci sarà. Ci sarà un mondo da scoprire, vedrai. Ci prenderà e quanta energia ti darà. Monster Rancher, vieni con noi. Tu puoi giocare, puoi lottare senza arrenderti mai. Nel mondo Monster.